più pensi, ti scuoti alma tradito ed esci mai dal carcere crudele, corse vita pure vita d'affanni. Ti scopri notti grinda con i gille solio, quella per cui il gran guerrier danglante, benché di questo por sprezzato amante, distrusse il suo potere. E in te pelone l'avorrito grifone. Nutrire può intanto sdegno nel tenero suo cuore donna amorosa, ma per esser